Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Questa settimana siamo impazienti, evidentemente, perché siamo così in anticipo. Sono le 14:58 e 54 secondi a Radio 24. Se avete bisogno di controllare l'orologio, 14:59 in questo momento a Radio 24, ma è già il momento del Sabato del Villaggio. Il sabato pomeriggio di Radio 24, il villaggio, lo sapete, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete, quindi tre ore insieme fino alle 18 con un sacco di ospiti, un sacco di amici. Per contattarci, il numero per gli SMS e per i vostri WhatsApp è 349-238-6666. C'è sempre il mio account di Twitter che è @MartaCagnola con l'hashtag cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Abbiamo scelto un tema quasi estivo perché tanti di voi beati sono in pieno weekend lungo, il ponte, che invidia, che meraviglia. Magari però il tempo, insomma, è così così, perlomeno a Milano oggi è così così. Sogniamo un po' di bel tempo, di bella stagione. E cosa arriva con la bella stagione? Ma ovviamente, arrivano i tormentoni. E quindi parliamo di tormentoni in tecnologia con Enrico Pagliarini. L'appuntamento con il gastronauta questa settimana torna in diretta come sempre le tendenze del cibo. I consigli per le uscite al cinema del fine settimana, ma prima, a proposito di tormentoni, lui ne ha inventati tantissimi, un amico di tutti che ci è venuto a trovare oggi al Sabato del Villaggio e lo introduciamo così. Questa è la storia di una vita, ma anche la storia di una carriera, ma soprattutto la storia dell'immaginario di molti italiani e di più di una generazione. Quindi siamo pronti ad abbandonarci un po' ai ricordi, un po' ai bei ricordi, ma anche a un presente estremamente divertente, e lo facciamo, ovviamente, lo avete capito, con Gerry Calà. Buongiorno Gerry. Buongiorno a tutti. Allora? Allora com'è? Te lo chiedo a te, com'è? L'hai letto il libro? Io il libro l'ho letto, guarda. Li faccio vedere alla radio. Ho gli appunti. Una vita da libidine. Hai raccontato la tua vita, il che non è scontato, ma hai raccontato anche la nostra di vita. Lo sai, Gerry, lo sai, vero, che hai raccontato la vita di tanti italiani? Eh sì, me ne sono accorto, perché andando indietro coi ricordi ed aprendo il cassetto della memoria, che poi da cassetto è diventato un cassettone, se non anche un armadione, perché secondo me poi non ci stava tutto in questo libro, ce ne sarà un altro, perché mi sono venuto avresti in mente... potuto fare un'enciclopedia. Sì, infatti ho martirizzato la Sperling perché non gli facevo mai chiudere il libro, dicevo no aspettate, c'ho un altro capitolo, un altro, a un certo punto non mi hanno più risposto al telefono. È giusto. E sono usciti, hanno fatto bene. Sì, perché chiaramente io ho attraversato, insomma, un periodo molto importante, e lo dico anche nel libro. Era quel periodo, uso una frase di una vecchia trasmissione che diceva: e voi potrete dire c'ero anch'io. Ecco, io c'ero quando ci sono stati dei grandi cambiamenti, no? Epocali. Però tu in questo libro parli, in realtà ti rivolgi ai ragazzi, non ti rivolgi né ai tuoi coetanei né a quelli più grandi. Io mi rivolgo ai ragazzi, sai perché? Perché i ragazzi... io li vedo anche quando vengono a vedere i miei spettacoli, dove io racconto in un'altra maniera, molto con la musica anche, racconto quel periodo. I ragazzi capiscono guardando i film, capiscono dai racconti che noi abbiamo vissuto un momento speciale e che loro se lo sono perso, hai capito? Hai ragione, io mi rivolgo ai ragazzi perché cerco di raccontarli come eravamo, ma come dovrebbero, secondo me, anche tornare ad essere loro. Ma quando tu ti rivedi... Io sono proprio trasversale, proprio. Ti metti giù, obliquo. Sì, trasversalissimo. Quando tu ti rivedi, ad esempio, in TV, perché poi d'estate soprattutto la TV saccheggia il passato a mani basse, quando tu rivedi quel ragazzino cosa pensi? Ma mi fa sorridere. Devo dire che non sono uno di quelli che dice: ah, io non mi posso vedere la televisione, no. Neanche quando, alla radio, quando lo c'è anche un mio radio. Film, quando c'è un mio film spengo, giro. No, io invece se l'incrocio me li guardo, anche perché così approfitto e faccio vedere a mio figlio, dice: guarda com'era scemo il papà. E lui cosa dice? Ormai lui è grande, però lui tuo è grande. Lui è grande e fin da piccolo qualcosina gli ho fatto vedere, non tutto, ma qualcosina gli ho fatto vedere. Non capiva bene, però adesso invece mi capisce bene, perché da quando sono diventato anche rapper grazie a J-Ax, che mi ha fatto sfondare la rete con 3 milioni di visualizzazioni del video Ocho, proprio da rapperone americano, adesso sono veramente il mito di mio figlio, perché sono amico dei suoi idoli. E non è poco. Ponte tra le generazioni. Per cui questi film, addirittura, ecco, una cosa mi fa piacere, perché ci sono dei bambini che adesso, per dire, vedono Sapore di mare e si divertono e mi riconoscono. Quindi vuol dire che, insomma, che sono ancora, dopo 30 anni sono ancora riconoscibile, mi fa molto piacere. È come quando a me capita che mi dicono: ti ho visto sulle foto e ti ho riconosciuto, allora non ci ho messo troppo Photoshop. Vuol dire che assomiglio ancora. Hai citato Sapore di mare, non posso non chiederti un ricordo, perché questa settimana è scomparsa Carina Huff. E c'è stato in rete soprattutto un grandissimo moto di commozione, di ricordo. Questo è Luca, my brother. Ciao Luca. Ciao Susan. Susan, allora tutto under control, eh? Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina. Molto felicina. Mi piacerebbe essere felicino anche a me. Uè, modera, eh? Questo ti fa capire quanto sia diverso l'orientamento dei produttori e di chi gestisce lo spettacolo da quello che pensa il pubblico di un attore, di un artista. Adesso tutti piangono Carina Huff, però insomma sono 20 anni che nessuno la chiamava per fare un film o per fare una fiction o qualcosa. Adesso tutti si accodano a questa elegia, hai capito? Vabbè, comunque detto questo, io ho dei ricordi bellissimi di Carina. Carina aveva un talento naturale proprio. Lei non aveva mai studiato recitazione, assolutamente così. Recitava in una lingua non sua con grande naturalezza, che è quella che fa grande un attore di cinema. Io ho scritto che è profondamente ingiusto che lei se ne sia andata così presto, e Carina sarà sempre nel mio cuore. Jerry, sempre a proposito di Sapore di mare, immagini, scene, gag e non solo, che sono entrate nell'immaginario come i tuoi tormentoni. Vai così! Anche se richiamano lo spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita. Perciò questa sera facciamo un pizzico di straordinario per Velatissimo. Si sieda. Pronti. Partoriamo lo slogan. Osti, c'ho già le doglie. Occhio, mi si stanno rompendo le acque. Vedo già la testina dello slogan che spunta fuori. Velatissimo. Il colan arrapantissimo. Siamo lontani. E tanto che aspettavo un'occasione così. Allora, io sono una bambina tra gli anni 70 e gli anni 80 e quindi... Sei stata contagiata. Sono stata ampiamente contagiata perché, capito, a scuola lo dicevamo tutti. Esatto, ho rovinato una generazione. Hai rovinato anche più di una generazione. Mi ricordo perché i professori, quando, qualche professore quando mi incontrava dice: ma tu me li rovina, perché io non posso più dire, ma avete capito, che tutta la, la classe fa capito, proprio mi odiavano i professori. Certo. Ma come nascevano? Ma nascevano abbastanza spontaneamente. Io sono sempre stato un grande osservatore, sia della gente per strada e sia anche in televisione. Mi piaceva cogliere delle cose che secondo me poi potevano essere, diciamo, ridicolizzate. Per esempio, quando ho inventato uno dei primi tormentoni, che era, non so se ti ricordi, Pova, che poi è diventata... Sai che me l'ero dimenticato, poi rileggendo il libro mi è tornato alla mente. E poi è diventata anche una canzone con i Gatti, certo, no? Prova, certo, a dare un calcio alla moviola, crolla di colpo il mondo dello sport. Pensa noi già... Eh sì, perché allora, il mondo... Ma non è cambiato niente, ancora la moviola in campo non c'è, ma ti rendi conto? Sono passati un po' di anni, sono eppure sono ancora attuali. Ecco, per esempio, quella lì, quella parolina lì mi è stata suggerita da, da una pubblicità televisiva della Nordica, che era un sapone, una cosa, uno shampoo così, dove c'era uno svedese con una bicicletta che diceva: avete mai provato la freschezza della primavera in Scandinavia? Allora io ci ho messo dentro prova e la gente l'ha preso. E poi i tormentoni erano frutto di sperimentazione, cioè perché noi lavoravamo tantissimo, come anch'io faccio, sono ritornato a fare ultimamente, sul pubblico, per cui avevi modo di sperimentare, no? Ogni sera vediamo se questa cosa funziona, quindi capivi se una cosa poteva o no andare. 2016, 20 anni di successo delle tue serate alla Capannina, e poi tu concludi il libro dicendo: ve ne sto preparando alcune che proprio non vi aspettate, occhio a darmi del vecchio. Quindi hai ancora voglia di fare un sacco di cose? Beh sì, come hai visto, insomma, questa, cioè io non mi tiro mai indietro, a volte anche sbagliando, però insomma a me piace dire di sì, hai capito? Infatti tanti lo sanno e se ne approfittano un po', però insomma fra i tanti sì che dicono, alcuni mi vanno bene, come quando mi ha telefonato J-Ax e mi ha detto: ma tu lo faresti un rap un po' tosto, un po' forte? Io dico: io sono qua. Poi hai scoperto che hai il flow. E poi ho scoperto che hai il flow. Infatti lui è rimasto quando sono andato a incidere il pezzo. Mi ha detto: guarda che ci sono dei rapper super professionisti che ci mettono 2 giorni. Tu ci hai messo 1 ora e mezzo. Dice, ma io tante ne ho fatte, altro che. E quindi insomma sono aperto sempre a nuove esperienze, sono a disposizione del futuro. Che bella questa, concludiamo con sono a disposizione del futuro, perché meglio di così non potremmo immaginarcela. Grazie a Gerry Calà, Una vita da libidine. Una vita da libidine, nelle migliori anche quelle così così librerie. Una vita da libidine. Grazie Gerry. Grazie a te. Che è favole di un'epoca un po' più in là, i colori di un'età. Libri e musica di un mondo che nasce beat, un disco dell'Equipe. L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà. Oggi è sabato, domani si dormirà, sogni di Beh, questo pezzo era bellissimo, si intitolava Verona Beat, non so se ve lo ricordate, è un vecchio pezzo appunto di Gerry Calà dei Gatti di Vicolo Miracoli. Che bello questo incontro con Gerry Calà, devo dire che stanno arrivando anche dei messaggi carini, non tutti li posso leggere perché insomma sono anche un po' forti come contenuti, ma no, ma semplicemente perché letti da me non avrebbero senso, però sono dei ricordi un po' particolari. Allora, diciamo solo che noi ci ritroviamo tra poco, perché adesso è il momento di dare la linea al traffico.

Rieccoci insieme con il sabato del villaggio. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di tecnologie. Allora, Enrico Pagliarini è arrivato, poi a un certo punto è sparito, mi ha detto quanto ho, perché avevamo la pubblicità e gli ho detto un minuto. Ah, allora ho tempo, ha detto, e se n'è andato. Ciao Enrico, sei tornato in tempo. Buongiorno. Beh, in un minuto in un minuto quante cose si fanno. Dovevi andare a prendere le tue cuffie. Io devo finire una telefonata, prendere le cuffie e tornare. Beh, un minuto, quanto tempo. Sì. Allora, questa settimana ti ho dato i compiti, ho detto che avremmo parlato di tormentoni. E ti ho preparato un tormentone per per Valentino Rossi in pole. Sì, sì, sì, abbiamo già detto? Sì, allora, mentre io ero in onda, vedevo il nostro Filippo Aureggi che con classe e discrezione gioiva al di là dal muro. Perché Filippo Aureggi ha classe e discrezione. Sì. Soprattutto nei confronti degli avversari si rivolgeva loro con dei gesti di armonia e conciliazione. Diciamo così. Perfetto. Vabbè, allora sentiamo il tormentone col quale ti accogliamo. Eccolo qua. Questo era un tormentone del passato. Ce n'è anche però uno sempre di più oggi. Vicino, eh? No, è sempre questo, però senti qua. Sì, poi sì, certo. Poi si evolve, no? Allora, questo era il Nokia Vals, Nokia Tune, esatto. Che in realtà viene quando, da un'opera quando classica. Quando si atterrava con gli aerei, che tutti adesso si i può riaccendere. Erano tutti Nokia, sì, no? Sì, ed era effettivamente un tormentone questa melodia. Grand Vals di Francisco Tarrega, so una roba colta che ti sto dicendo così. Che viene non da. Lo sapevo. Ne abbiamo anche uno più moderno, eh? Esatto. Allora, sentiamo se ci abbiamo quello più moderno. Ce l'abbiamo? Ok, questo è un po' d'elite, però ce n'è uno più popolare, non so se l'avete preso. Abbiamo anche un remix. Addirittura. Abbiamo anche un remix, ce l'abbiamo, sentiamolo. Come ti pare questa? Mi sembra un'opera d'arte. Molto discreto. Ma c'è anche WhatsApp? Questa è una suoneria di... Sì, sì, sì. Perché effettivamente il suono che oggi viene utilizzato su WhatsApp quando che notifica l'arrivo di un messaggio, a volte è un tormentone piuttosto fastidioso. Ah, io ho lasciato fuori il telefonino, sennò vi quando, faccio sentire che suoneria ho. Quando una tua collega o un tuo collega a fianco sta scambiando ma messaggi, caso, no, uno o, a caso, non, perché stavo pensando sta scambiando che i messaggi col figlio vicino, e gli continua a dire hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai fatto quell'altro, mentre tu sei lì che lavori. Dopo, allora, dopo la pausa comunque, porto il telefonino in studio e ti faccio sentire che, allora, che, io che suoneria fatto, ho io. Ho fatto il compito, sì? Che era selezionare oggetti o servizi su internet di cui si è parlato molto in questi ultimi 10-15 anni, anche un po' più recenti, e che in alcuni casi hanno fatto flop, sì. In altri casi hanno fatto successo. Sì. Quindi la classifica potrebbe essere molto lunga, però questa regola che mi sono dato, cioè di cui si è parlato molto, ovviamente riduce la classifica. Tu dimmi il nome così ti dico subito, se me lo ricordo vuol dire che è stato successo. Sì, se non me tutti, lo ricordo, no, non tutti hanno un nome, perché alcune cose sono tipo i palmari. Non avevano palmari, un nome, no, palmari. Erano nell'epoca della Palm, sì. Erano una sorta di tormentone, cioè certo. Tutti parlavano dei palmari, era pre-smartphone. Dire. Sì, pre-smartphone, sì, sì. Anche i palmari sono stati un dopodiché, e qua stiamo parlando di smartphone, quindi comunque di telefonia mobile, di telefonini, e poi è arrivato il momento del touch. E quando o meglio, è tornato il momento del touch, perché il touch c'è sempre stato. Steve Jobs lo ha rivisitato, riproposto, e ha fatto un grande successo. Un altro dei tormentoni, e in questo caso, così come il touch, è stato un successo e ancora oggi siamo immersi all'interno di questo tormentone, sono le app. Beh, ormai le app ci sono ancora. Abbiamo creato la app economy, addirittura l'economia dell'app. Sì, sì, beh, certo, ci sono tutti dei dati molto, molto interessanti sul fatto che ci sono un sacco di persone che vivono, hanno creato delle aziende grazie all'ecosistema delle app. Un altro dei tormentoni recenti sono gli smartphone, i phablet, smartphone sempre più grandi. Cioè quelli grossi, quelli che sembra che la gente telefoni con la racchetta. Allora, tornando nel passato, secondo me questo è il tormentone più grosso nell'ambito della telefonia, ma sono le videochiamate. No, le videochiamate! C'è stato un periodo in cui tutti parlavano di che sembrava che che dovessimo videochiamare, perché poi grande flop, cioè, chi ma è quando che mai? Ma penso se ogni volta mi devo truccare per assieme, qualcuno. Assieme al video, alle videochiamate, c'è il, adesso è una cosa un po' tecnica, però magari alcuni se la ricordano, vi ricordate il DVB-H? Che era il digitale terrestre per i telefonini. Tutte io mi ricordo che aziende, c'era una pubblicità, era i tempi di, non mi ricordo che mondiale o che europeo, pubblicità sportiva, l'abbiamo rivista anche perché protagonista era Cesare Maldini, Cesare e Paolo Maldini che guardavano i gol da uno schermo di un telefonino che avevano chiamato videofonino. Sì, sì, esatto, era l'epoca del video, del DVB-H, cioè il digitale terrestre per i telefonini. Beh, e grande successo. Pensa un po', tutte le aziende di telefonia mobile hanno investito mettendo antenne in giro per l'Italia per trasmettere i segnali del DVB-H. Investimento. Soldi buttati, però vabbè, mica sempre ci si indovina. Allora, altro tormentone, l'UMTS. L'UMTS, che era il 3G, no? Certo. Poi in effetti questo è stato un grande successo, però era legato alle videochiamate. Eh? Uno dei motivi per cui si doveva acquistare il nuovo videotelefono era, arrivava l'UMTS, il 3G, e quindi si potevano fare. Ma quindi UMTS e 3G è la stessa cosa? Sì, sono sinonimi. Ah, ok. E infatti, a conferma del fatto che poi questo è stato un successo di mercato, poi dal 3G siamo passati al 4G, che ancora oggi potremmo ancora definirlo una sorta di tormentone, ma tecnologie utili che noi utilizziamo. Passiamo a un altro settore. Vi ricordate gli anni in cui si parlava del WiMAX come soluzione di tutti i problemi alla certo, connettività internet? Certo. WiMAX viene utilizzato, però è una cosa che non ha avuto sicuramente il successo. Ci sono state delle gare, delle aste, lo Stato ha guadagnato un sacco di soldi perché ha messo ha venduto delle licenze per il WiMAX. Software peer-to-peer, c'è ancora oggi chi utilizza il software peer-to-peer, però allora, il tormentone più grosso è stato Napster. Ah, Napster, che è stato il primo sì, accenno di pirateria musicale. Si andava su, però, Napster e si scaricava a gratis, illegalmente. Sto scherzando, gratis e illegalmente la musica. Però è durato poco, perché grosso modo è durato 2 o 3 anni, poi l'hanno chiuso. Poi il fenomeno è continuato, quindi il tormentone dei software peer-to-peer, Emule, Kazaa, BitTorrent. Oggi se ne parla molto meno, perché? Perché ci sono servizi legali, certo, anche gratuiti. Cioè, peer-to-peer era, io ho una cosa sul mio computer, la metto in condivisione, esatto, e tu la puoi scaricare. Esatto. Poi venendo agli ultimi anni, forse il tormentone dei tormentoni è la parola smart, che abbiamo appiccicato ovunque. Smartphone, smart TV, smart watch, smart band, cioè sono i braccialetti. Smart qualsiasi cosa. Che significa intelligente, sì, che significa furbo. Sì, sì, sì. Però effettivamente è una sorta di tormentone che si è infilato dappertutto. Pensando ai televisori, però il 3D è stato per alcuni anni una vera e propria quasi minaccia, cioè se non avevi il 3D eri un po' pirla. Anche, anche se non avevi il 3D eri un po' oggi, pirla. Oggi tutti i televisori sono 3D. Cioè, non lo sappiamo, ma sono tutti 3D, però non mi risulta che sia un grande successo, non mi risulta che sia un servizio molto apprezzato. Anche non tanti programmi, no. Ma sì, poi c'è tutta una complicazione, insomma, gli occhialini, eccetera, eccetera. Anche al cinema non mi sembra che faccia un grande successo. Sempre per rimanere nei televisori, tormentoni che poi non hanno visto un grande successo, le TV curve. Che questo è un tuo cavallo di battaglia. No, non tu la senso. TV di non fronte senso, alla TV curva tu ti arrabbi sempre. Ma sì, perché non ha assolutamente senso. Però infatti poi il mercato ha dimostrato che non gliene frega niente a nessuno. Il decoder per il digitale terrestre. Quanti anni abbiamo passato parlando anche in famiglia del decoder per il digitale terrestre? Oggi questo l'abbiamo superato. Invece una cosa che ha avuto successo, che continua ad avere successo, e la metto tra i tormentoni perché è una cosa di cui si è parlato molto e si sta parlando molto, l'HD, l'alta definizione, e il 4K. Do una notizia, allora, che di questi giorni la finale di Champions League, per chi ha un televisore 4K, per chi ha un decoder, cioè insomma, 4K tutta una super super definito, molto molto definito, devi avere una TV molto, un televisore molto molto grande. Poi tra i tormentoni che hanno fatto flop, la realtà virtuale di una volta, cioè Second Life. Second Life, ogni tanto mi manca però Second Life. Ah, c'è ancora, esiste ancora. No, ho visto che esiste ancora, sai perché ti dico? Sì, perché la scorsa settimana io mi sono messa a giocare con mio nipote, volevo capire cosa fosse Minecraft, perché lui è appassionatissimo. E certi scenari di Minecraft, che è una sorta di mondo che tu costruisci. Esatto, dove devi costruire delle... Certi scenari di Minecraft mi ricordavano scenari di Second Life. Beh, Second potremmo inserirlo. Era capitolo. Troppo in anticipo sui tempi. Probabilmente, sì sì. Perché era una realtà virtuale, potevi socializzare, però un po' rudimentale. Ci mettevi 90 anni a scaricare le cose, era difficilissimo interagire, però era chissà, carino Second Life. Allora, devo dire che Cosa mi ricordo? Gianluca Nicoletti usava tanto Second Life. Te lo ricordi? Ma molti hanno usato Second Life. Io ricordo conferenze stampa in cui c'erano decine di giornalisti a sentire gli annunci di aziende che sbarcavano su Second Life. Sì, ma io mi ricordo anche iniziative convocate su Second Life. Sì. Beh, insomma, la Reuters aveva i giornalisti in Second Life. Ma sembra che stiamo parlando di un secolo fa, ma pochi anni fa. Però devo dire che questo tormentone in parte continua, perché oggi, grazie ai visori per la realtà virtuale che stanno arrivando sul mercato, oggi si possono comprare, anche se costano ancora un po' molto, stiamo riparlando di realtà virtuale, quindi è un tormentone che ha visto dei fallimenti, ma potrebbe anche avere dei successi. Poi continuiamo tra poco, diamo la linea al traffico, allora ci risentiamo tra qualche istante, traffico, poi ancora col sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. Bello questo discorso dei tormentoni in tecnologia, quelli che hanno avuto più successo, quelli che sono andati un po' così così, ce ne sono ancora? Sì, beh, potremmo continuare ore. Allora, un tormentone che non ha avuto successo per il momento sono i Google Glass. Esistono ancora, non esistono più? Sì, beh, allora, esistono a livello per gli addetti ai lavori, per gli sviluppatori che potevano comprarli, ma esiste ancora un progetto che però non ha mai visto la luce. Questo lo inseriamo nel capitolo wearable devices, cioè oggetti da indossare. Sì. Ecco, non mi sentirei di dire che è stato un fallimento quello degli smartwatch, però sicuramente non è stato nemmeno il successo che alcuni avevano forse un po' troppo amplificato. Diciamo che l'iWatch, l'Apple Watch, bisognava averlo quando ancora non ce l'avevano gli altri per tirarsela un po'. Esatto. Ma allora devo dire che qualcosa si vende, alcuni milioni di pezzi vengono venduti, però non stiamo parlando di mercati giganteschi. Okay. Quindi anche qui stiamo osservando un tormentone che si è un po' fermato. Gli e-book reader, è qui. Purtroppo per gli ebook reader molti sono stati sostituiti dal tablet. Sì, perché uno ha un tablet e usa il tablet anche per te ne accorgi in spiaggia che non va bene il tablet. Sì, quello è vero, però non c'è più questa euforia e anche insomma il mercato ci dice che non c'è più euforia. Volevo concludere con questo minuto e mezzo, due minuti che ci dividono dal cinema, con i tormentoni a cui sono sottoposti tutti coloro che lavorano in questo ambito, ma di fatto poi tutte le aziende, perché ci sono tutta una serie di parole e tecnologie che sono diventate dei tormentoni, e sembra a volte che se non fai una cosa in cloud, non sei nessuno. Quindi cloud sicuramente è un tormentone che bisognerebbe un po' ridimensionare. Big data e analytics, anche qui se non hai soluzione analytics non sei veramente nessuno, Internet of Things e poi tutto il trend di qualche cosa as a service. Cioè se non sai l'inglese intanto sei fregato, perché parola italiana sì, sì. Anche No. Io vado a conferenze dove fai fatica a capire, capisci però... Che sarebbe meglio se parlassero direttamente in inglese. Sì. No, questo fa ridere però, perché è tutto, c'è un po' tutto as a service. Software as a service, infrastructure as a service, platform. Ah, poi platform. Se tu oggi non hai una platform. Ma certo, ma senza platform, che sfigato, dai. Senti Enrico, io intanto volevo dirti che prima ho parlato di salumi bulgari e mi sono arrivate un po' di critiche. È quasi offensivo. E infatti stavo pensando, ho parlato di salume bulgaro di fronte a un modenese. È proprio... Io sono per la chiusura delle frontiere in certi casi. Nel caso dei salumi? Ma sì, ma certo. Vabbè. Frontiere aperte solo verso l'esterno. Ah, dei salumi, perché dobbiamo importare? Io veramente faccio fatica a capire perché uno deve andare a volte a mangiare, vabbè, ogni tanto può anche capitare, però c'è gente che si abitua a mangiare cose assurde di altri paesi. Abbiamo un paese straordinario che può essere scoperto dalle Alpi fino alla Lampedusa. È modenese. Senti Enrico, rimani ad ascoltare non solo il cinema adesso, perché parliamo con Franco D'Assisti, ma poi tra poco parleremo di qualcosa, lo diciamo agli ascoltatori, stasera ti porto a vedere una cosa. Ah sì sì, non lo diciamo ancora, allora più tardi nella seconda ora vi parlerò di un evento che c'è questa sera. Io ci vado con Enrico Pagliarini, allora voi rimane, c'è già stato, sarà anche stasera, siamo gli ultimi. Vabbè, più tardi lo sveleremo dopo, adesso cinema. Ciao a tutti. Credo di aver trovato una malattia di cui nessuno si era mai accorto. Quelli usano la testa come un'arma. Devi continuare. Perché possa continuare, ne devono morire ancora. Purtroppo sta già succedendo. Famiglie che vengono distrutte continuamente. Siamo in guerra contro una delle più grandi corporation del mondo. Vendetti! Se continuate a rifiutare il mio lavoro, i vostri uomini continueranno a morire. Credo che diventerai un eroe americano. Ma non sono neanche americano. Ancora meglio. E con questo estratto cominciamo a parlare delle uscite al cinema nel fine settimana. Intanto questo film con un grande attore, un attore di richiamo. Di cosa si tratta? Dobbiamo andarlo a vedere? Beh, lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, torna sugli schermi, sui grandi schermi d'Italia, Will Smith, questa volta nei panni del medico di origini nigeriane, una storia vera ambientata all'inizio degli anni 2000, che con la sua opera, quasi inconsapevole perché non era un tifoso di football americano, con la sua opera di anatomopatologo, dopo un'autopsia si rende conto che c'è qualcosa che non va nelle morti sospette e misteriose di troppi ex giocatori di football, nemmeno troppo vecchi. Vive in una città che è Pittsburgh, una città che vive di acciaio e di football, e capisce l'importanza di queste morti, la connessione che farà fra questi casi, tra l'altro spendendoci del suo, contrastato dalle autorità ospedaliere e poi chiaramente a un certo punto anche dalla grande macchina della NFL, della Lega Americana di Football. Queste connessioni porteranno alla luce una realtà davvero incredibile, quella che i traumi che subiscono questi giocatori durante la loro carriera accavallandosi possono portare a queste nefaste conseguenze. È un caso che ha davvero allertato l'America e che adesso il cinema porta in luce con questo film di Peter Landesman, con una buona interpretazione appunto di Will Smith, forse con una regia non particolarmente guizzante, che non ha regalato momenti di cinema puro, diciamo così, particolarmente alti, però c'è un'importanza intrinseca nella storia raccontata, un po' alla Insider per intenderci, che forse può bastare per godersi il film. Franco, poi questo fine settimana c'è un film che mi incuriosisce molto e che io non ho ancora visto, voglio sapere se vale la pena andarlo a vedere oppure no, Truman. Guarda, Truman è probabilmente il film della settimana, nel senso che questa storia di un attore argentino che da lungo tempo vive a Madrid e che riceve la visita inaspettata di un vecchio amico che si era trasferito in Canada, appunto Thomas, e del cane Truman, è una storia che ha commosso davvero molto e molti. Lo ha fatto vincendo parecchi premi Goya, per esempio, che sono gli Oscar spagnoli, perché è un film di produzione spagnola, sebbene appunto insieme all'Argentina. È un film che, banalizzando, potrebbe sembrare l'ennesimo film sul rapporto fra cane e padrone. Ricorderete quello di qualche anno fa con Richard Gere. Invece è un film su un periodo della vita, quello che prelude la fine della vita, vissuto però con leggerezza, con lo spaesamento dovuto in quel momento, ma con anche il bisogno di mettersi intorno gli amici veri, di scaricare, diciamo, tutto il bene che c'è ancora dentro di noi su qualcuno e qualcosa che ci appartiene e che sentiamo vicino, e soprattutto di pensare a un futuro positivo possibile per il migliore amico che hai avuto fino a quel momento, se è stato un cane come in questo caso. Insomma, è un film commovente ma molto molto leggero, quello diretto da Cesc Guy, e devo dire che è davvero una proposta consigliabile. Franco, infine, per gli appassionati di cinema italiano, ce ne sono tanti, c'è qualcosa che esce questa settimana? Beh sì, certo Marta, c'è il ritorno di Tony Servillo che, come dire, ormai fa una sorta di proposta a sé, nel senso che ci sono i film con Tony Servillo che uno va a vedere indipendentemente da qual è il regista, poi spesso sono registi fra i più interessanti della scena italiana. Si intitola Le Confessioni, lo dirige Roberto Andò, che aveva diretto Viva la Libertà 3 anni fa, sempre con Tony Servillo, lo ricorderete, Pazzerello, che si improvvisava dirigente del Partito Democratico e cambiava la storia della politica italiana. Anche questa volta l'occhio di Andò si posa su una situazione che ci è vicina, cioè quella dell'Europa, di un vertice, di un G8 economico, che viene turbato dalla presenza di un monaco, appunto Tony Servillo, che la prima sera in questo lussuoso albergo confessa il più potente di tutti, insomma il banchiere centrale, che potrebbe avergli rivelato segreti grandissimi che mettono in pericolo il futuro delle nazioni e dell'umanità. Sicuramente quel che è certo è che il mattino dopo quest'uomo viene trovato morto. Il film si trasforma in un giallo vero, con proprio i codici del giallo, dove però la domanda non è chi è l'assassino, non è chi ha ucciso chi, ma è quanto siamo deboli e quanto ci improvvisiamo ormai come società, visto che la politica ormai ha fatto più di un passo indietro nel cercare di risolvere i problemi del mondo. Ecco, voglio dire, un film molto particolare, e va lodato il coraggio di Roberto Andò, la grande prova di Tony Servillo, un cast importantissimo con Pierfrancesco Favino, Daniele Auteuil, Lambert Wilson, Moritz Bleibtreu, cioè il meglio del cinema europeo. Ne parlerà con noi, tra l'altro, alla Rosa Purpurea alle 18, proprio Roberto Andò, il regista, quindi restate con noi perché sentiremo il protagonista dell'idea di questo film. Grazie Franco, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 e ancora il prossimo sabato, al Sabato del Villaggio. Ciao, ciao Marta. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Il Sabato del Villaggio. Ho fatto spaventare il nostro Filippo Aureggi in regia perché sono scappata fuori un attimo prima della sigla. No, volevo prendere il mio smartphone, a proposito dello smart di cui parlavamo prima con Enrico Pagliarini, perché voglio postare una foto che ho fatto con l'ospite che avremo tra poco. Adesso la posto su Twitter. Rieccoci insieme con il Sabato del Villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nella terza ora dalle 17 alle 18, l'appuntamento con RadioTube. Fatemi dire subito, appunto, i numeri per contattarci via SMS, via WhatsApp 349-238-6666, appunto su Twitter @MartaCagnola, anche perché adesso posto questa foto di questo bellissimo ragazzo che ascolteremo tra poco. I temi della seconda ora nel nostro appuntamento con Maria Luisa Pezzali, un grande trend, le aperture notturne, ne parleremo di consumi e dei più piccoli. Tutti i libri del momento nello spazio di Alessandra Tedesco e poi anche tra i libri avremo i nostri tormentoni. Il tormentone è appunto quello, il tormentone che ci accompagna in questo sabato pomeriggio. Parleremo dei tormentoni in pubblicità con un evento del weekend che io consiglio ai milanesi, ma partiamo subito con una scommessa in musica. Sarà questa la colonna sonora dell'estate? Solo Allora, io apro le scommesse, ma già le chiudo. Non so se sarà il tormentone numero uno dell'estate, ma sicuramente sarà la nostra colonna sonora. E già questa Sofia al numero uno di iTunes appena è uscito. Lui è Alvaro Soler, spagnolo, catalano, di Barcellona. L'anno scorso ha fatto ballare tutti con El Mismo Sol. Adesso torna in Italia con questo secondo singolo di successo, sicuramente già lo è. Sarà la colonna sonora dell'estate? Sicuramente gli italiani lo amano moltissimo e quindi lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto ovviamente com'è per lui rientrare in Italia. Realmente es algo que estaba esperando ya desde hace mucho tiempo y haciendo. È qualcosa che stavo aspettando da tanto. Non tornavo in Italia da troppo tempo. Sono contento di essere tornato qui per promuovere il mio nuovo disco, soprattutto nelle radio, che per me sono fondamentali, e di vedere che qui la gente per me si muove molto, che l'appoggio che ricevo qui non ce l'ho da nessun'altra parte. È incredibile. A me l'appoggio che mi danno qui non me lo danno in nessun'altra parte, así que es increíble. Stavo guardando le visualizzazioni del video Sofia e i commenti sono tanti italiani. Sì, es verdad, realmente. Sì, è vero. Tutto per me è iniziato in Italia. Siete la forza maggiore che appoggia la mia musica. Per questo ho un amore incredibile per l'Italia. Io tengo un amore per l'Italia incredibile también. Tre giorni, quattro giorni, il video ha già centinaia di migliaia di visualizzazioni, più di un milione. Sì, è stato incredibile, io non credevo che fuera a subire tan rapido. Sì, è incredibile, non potevo credere che le visualizzazioni sarebbero cresciute così rapidamente. Mi piace vedere che la mia musica continua a funzionare, soprattutto dopo El Mismo Sol, una canzone che è andata così forte dappertutto che non era facile continuare allo stesso livello. Perlomeno questo inizio mi tranquillizza. Vediamo come va avanti, ma è cominciato tutto in maniera incredibile. E ora vedremo come sigue, però almeno tiene un principio incredibile. Non avevi paura dopo un successo così forte? Miedo no, non tenía miedo, tenía igual un poco de... me puse presión quando aún estaba haciendo la promozione con El Mismo Sol, perché pensaba como... Paura no, sentivo un po' di pressione all'epoca della promozione di El Mismo Sol. Non potevo credere a quello che stava succedendo e mi chiedevo, adesso cosa posso fare? Per me è stato un grandissimo passo avanti e quando ho cominciato a scrivere le nuove canzoni ho deciso di prenderla con la maggior naturalezza possibile. Sono tranquillo, so che può succedermi di tutto. Nella mia testa ho tutti gli scenari possibili. Adesso vedremo quale si avvera. Tutti gli scenari stanno in mia cabeza, a ver qual passa, no? Sei ancora giovanissimo. Sì, la verdad que sí. Gracias. Sì, beh, grazie. A 25 anni avere potuto fare queste esperienze, vedere tutto questo, viaggiare tanto, è già stato bellissimo. Mi piace tantissimo viaggiare, sono davvero felice. Así que estoy encantado. Successi, ma quando hai avuto tra le mani El Mismo Sol hai capito che poteva essere un successo così grande? Sono sicuro che no. Io queria altra canzone come single, in realtà. No, io no. Pensa che io come singolo volevo un'altra canzone, ma meno male che abbiamo scelto questo. Le cose magari sarebbero andate diversamente. Quando scrivo le mie canzoni non è facile per me essere obiettivo. Allora con i miei discografici e manager con i quali scelgo i brani dico... Ho scritto queste canzoni. Ditemi quali vi piacciono e scegliete. A me piacciono tutte allo stesso modo. Mi piace così. Así que eso es lo que me hace más feliz. Hai fatto così anche con Sofia? Sí, pero Sofia realmente no, o sea, Sofia realmente yo quería que fuera el single también. Sí, però pensavo davvero che avrei voluto avere Sofia come nuovo singolo. Anche se il mio atteggiamento era molto aperto, pensavo davvero che sarebbe stato il miglior disco. Avevo la sensazione che questo brano avesse qualcosa di speciale. Comincio ad avere un po' più di esperienza del mondo del pop, mi dà delle belle sensazioni, mi trasmette un'energia positiva. Che non può essere, questa tiene che essere single, perché ti trasmette un'energia molto positiva, no? sei spagnolo, in particolare catalano, però nelle tue canzoni c'è anche qualcosa di latinoamericano, in particolare questo video l'hai fatto a Cuba. È un stile che a me mi dà molto buon rollo e al empezar pues mira todo era muy natural y... È uno stile che mi dà delle belle sensazioni. Dall'inizio mi è venuto subito molto naturale. Le canzoni mi venivano una dietro l'altra. Quello che volevamo maggiormente era avere un suono molto organico e per questo lo abbiamo registrato in presa diretta e questo si nota. Dà una sensazione fresca ed estiva e mi diverte davvero molto. E eso es divertido y me divierte, yo creo, al final. La prima immagine di Sofia è appunto l'infanzia, la leggerezza. Sì, o sea, io credo che a me Sofia giustamente también es una canción que Sofia è una canzone che ha anche un testo abbastanza triste. La canzone rappresenta la realtà del mondo. Problemi durante il giorno, succedono sempre cose che non puoi evitare, ma che poi trasformi in positivo perché solo così puoi andare avanti. Ed è anche la musicalità della canzone che ha un'atmosfera positiva, anche se il testo in parte è malinconico. È l'equilibrio della vita. Io vivo appieno la vita. Per me è la realtà di tutti i giorni e volevo mettere questo contrasto nella mia canzone. Mira, me gustó poner el contraste en la canción, esta manera. Bajo el mismo sol. OneExpress.it. Il Pallet Network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Il sabato del villaggio. E lo abbiamo detto, in questo weekend lungo, però un po' uggioso, perlomeno qui a Milano il tempo non è granché, ma so che in giro per l'Italia non è particolarmente brillante. Comunque in questo weekend un po' uggioso abbiamo anche voglia di leggere. Chissà se ci sono dei tormentoni anche per quanto riguarda la lettura. Secondo me sì. Ascoltare gli One Direction, e quando ascoltiamo gli One Direction al sabato del villaggio, beh, anche loro sono in sé un tormentone. Stiamo parlando tanto di tormentoni in questo sabato pomeriggio, ma so che la nostra Alessandra Tedesco, che ci parla di libri, ci deve parlare di qualcosa in particolare legato agli One Direction, nato come fan fiction degli One Direction e diventato un fenomeno, vabbè, impossibile da ignorare. Buongiorno Alessandra. Ciao Marta, ti guardo con questo sguardo un po' perso perché veramente non ce la faccio più a parlare di questo libro, anzi io di sai questi che libri. Io ci ho provato e ammetto di non essere della generazione giusta. Non siamo della generazione giusta. Allora diciamo mi che mi sento stiamo... lontana dalle ragazze, dai Alessandra, siamo lontane. Abbiamo superato i 40, però devo dire che è un vero tormentone la saga dell'americana Anna Todd, che si intitola After, ma adesso è uscito Before, ma adesso facciamo un pochino di ordine. Allora, lei che come ha iniziato? Ha iniziato, come giustamente dice, dicevi tu, a scrivere una sorta di fanfiction sugli One Direction su Wattpad, che è uno strumento, diciamo, una sorta di piattaforma dove soprattutto i ragazzi scrivono inizi di libri oppure pensieri e così via. L'abbiamo definito qualche volta il social network degli scrittori o degli aspiranti scrittori, ecco. Sì, perché insomma, a parte Anna Todd, non ricordo in questo momento altri fenomeni. Sì, c'è anche un fenomeno italiano che però insomma non è esploso, quello di Sabrinex. Però Anna Todd invece è esplosa negli Stati Uniti, quindi una casa editrice ha preso i suoi romanzi e ha pubblicato, se non erro, sono 5 i libri di After. Che cos'è After? È sostanzialmente una storia d'amore fra due adolescenti o post-adolescenti, Ardyn e Tessa. Quindi chiaramente si seguono tutte le loro vicissitudini, si prendono, si lasciano, Tessa è un po' insicura, viene un po' bullizzata dalle compagne di scuola e trova in Ardyn, insomma, il suo punto di riferimento. Ma ora il vero tormentone succede? Before, perché dopo aver seguito la storia di questo innamoramento è uscita una cosa secondo me meravigliosa, perché Before, pubblicato in Italia da Sperling e Kupfer, sempre scritto da Anna Todd, è un prequel è un sequel. No, mi sono persa. Un genio Anna Todd. Aspetta, cioè, mi sono persa. Ha fatto il prequel, cioè racconta attraverso le voci dei protagonisti che cosa è successo ai due protagonisti, Ardyn e Tessa, prima del loro incontro, ma nello stesso tempo... Quindi before, after. Esattamente. Però ci fa vedere anche che cosa succede dopo che il loro rapporto è diventato consolidato. Quindi ci fa vedere un passato e il futuro. No, tutto. Te l'ho detto, allora io ci ho provato, se qualcuno è all'ascolto e ha meno di 18 anni e si è appassionato di queste, di questa saga, ragazzi, non ce l'ho fatta, cioè non ci riesco, sono troppo lontana. Però ti posso dire che quando è venuta a Milano Anna Todd un paio di settimane fa, ti assicuro che fuori dalle librerie c'erano centinaia e centinaia di ragazze in fila per avere semplicemente un autografo, e vedere delle ragazze, delle persone così entusiaste per un libro, per una scrittrice, è una cosa che francamente comunque mi apre il cuore. Anche a me piace tanto. Che il libro naturalmente è leggero, la storia d'amore, c'è anche abbastanza sesso in questo after e before, non dimentichiamolo. E diciamo, fa parte dei romanzi rosa della nuova generazione, con qualche sfumatura Quindi di rosso. Comunque qualche sfumatura di rosso, cioè, non bambini, ecco. No, assolutamente. Non bambini, assolutamente. Ecco. Altri libri di cui si parla, Alessandra? Altri tormentoni possibili librari, se possiamo usare il concetto di tormentone anche nei libri? Sì, guarda, perché ormai è entrato in classifica, insomma, sta sbancando come spesso succede ai suoi libri. Lei è la scrittrice spagnola Alicia Jiménez Bartlett, che è conosciuta anche come la Camilleri, la Camilleri spagnola, perché ha inventato questo personaggio dell'investigatrice Petra Delicado. Ma adesso parliamo di tutt'altro libro, perché il libro che ha pubblicato adesso in Italia per Sellerio sempre si intitola Uomini nudi. Allora, di che cosa parla? Dunque, non vi posso svelare molto, perché non è un giallo, ma è bello come si intrecciano le storie. Diciamo che ci sono due protagonisti. Da una parte Irene, una donna, un'imprenditrice con un grande senso del controllo. Il marito ha 46 anni, come al solito perde la testa per una più giovane, la molla, e lei rimane da sola. Però siccome lui dipendeva da lei nell'azienda dove lavorava, viene anche licenziato. Lei apparentemente non versa una lacrima, sembra una donna molto sicura di sé, e mentre gli amici l'abbandonano fa amicizia, diciamo, con una donna piuttosto ricca, ma anche che vive la vita in modo piuttosto superficiale. Parallelamente seguiamo la storia di Javier, che è uno giovane invece insegnante che, a causa della crisi economica, viene licenziato dalla scuola cattolica dove insegna, e questa cosa lo mette in crisi anche nei suoi rapporti personali con la sua compagna. E allora, quando Alicia Jiménez Bartlett è venuta a trovarci qui a Radio 24, gli ho chiesto come mai ha deciso di far diventare la crisi economica il terzo protagonista del romanzo. Sentiamola. Perché mi piace molto, penso che è molto importante raccontare la vita che viviamo all'attualità. Il romanzo tradizionalmente aveva un ruolo testimoniale e questo si è perduto un po'. E per me è importante, perché abbiamo altre maniere di capire la realtà o di sapere la realtà, come il giornale o la radio, giustamente. Ma un romanzo va un po' più profondamente verso questa realtà, tenta di fare un'analisi. E allora mi piaceva, faceva soffrire un po' questa crisi, perché vedo che ha cambiato tante cose al mio intorno. Ma come mi piace questo accento! Tra l'altro abbiamo appena sentito Alvaro Soler, anche lui spagnolo, con questo bellissimo accento che fa subito così caliente. Mi piace un sacco. A chi lo consigliamo questo libro? Perché io ho ascoltato attentamente la trama, che sembra non complicatissima, ma bisogna stare attenti. Sì, poi succedono delle cose anche perché qui, lui appunto diventa spogliarellista all'improvviso. Ma anche qui ci sono delle sfumature di rosso. Li ho scelti sulla stessa scia i tre libri di oggi, guarda. E quindi ci sarà un incontro, non vi dico altro. Uomini nudi di Alicia Jiménez Bartlett, pubblicato da Sellerio, lo consiglio, diciamo, a persone che hanno superato i 30 anni, secondo me, perché gli altri non possono cogliere, secondo me, tutto, anche il rapporto che si frantuma, lei una quasi cinquantenne, eccetera, e finisce con una storia un po' piccante. Non vi dico nient'altro. Beh, la storia piccante. In questi libri ci sono sempre queste storie un po' piccanti, però ogni tanto ci piace leggere anche il piccante. Ultima segnalazione. So che si parla tanto di un libro che mi hai detto è stato twittato da Roberto Saviano. Sì, sai che quando Roberto Saviano twitta, praticamente un libro esplode. Non si tratta di camorra, non si tratta di mafia, si tratta di un puro romanzo, anche qui con qualche sfumatura erotica. Non a caso, sono solo sfumature psicologiche, ti assicuro che non ci sono scene di sesso, a parte una in questo romanzo, che si intitola L'innamoratore, l'ha scritto Stefano Piedimonte, pubblicato da Rizzoli. Io trovo che il titolo sia bellissimo per descrivere questo personaggio. Il protagonista è un uomo che si fa assoldare da altri uomini ricchi per far, non diciamo per far sesso con le loro mogli, eccetera, ma per far innamorare veramente, per far cadere ai suoi piedi queste donne, per una serie di ragioni. C'è chi vuole una giusta causa per il divorzio, c'è chi vuole, insomma, ognuno ha le sue ragioni. E quest'uomo lo fa di professione, quindi studia, diciamo, queste donne, le corteggia in modo meraviglioso, un po' come si faceva un tempo, e finisce lui stesso per innamorarsi delle donne che deve far cadere ai suoi piedi. E questa è la storia dell'innamoramento, diciamo, di questo tentativo di innamoramento con una donna. Ma nello stesso tempo c'è un pizzico di giallo, perché sappiamo fin dall'inizio che l'innamoratore è ridotto, non dico in fin di vita, ma insomma piuttosto male, perché è fasciato come una mummia in ospedale perché qualcuno gli ha voluto fare del male. E chi sarà stato di tutti imprevedibile, questi, ti assicuro, bene, che alla fine è imprevedibile. Mi ricordava anche un po' la trama di un film di Davide Marengo di qualche anno fa con Luca Paolo, Geppi Cucciari, che veniva pagato per far innamorare le donne. Sì, un marito che pagava un altro che assoldava un altro per liberarsi della moglie, ma poi anche lì succedono di tutto. Vedi, le idee sono nell'aria. Perché hai davanti dei fogli con scritto Elena Ferrante? Vabbè, perché Elena Ferrante sta ritornando in auge, assolutamente, se ne sta parlando moltissimo di nuovo. Elena Ferrante, lo ripetiamo, l'autrice dall'identità sconosciuta, nessuno sa chi si celi dietro questo nome. Cioè, tutti sono convinti di aver scritto chi è davvero. Sono io, però. Je suis Elena Ferrante, anzi Elena Ferrante è più figo, così facciamo anche delle citazioni letterarie. Si sta riparlando dei libri di Elena Ferrante, che lo ricordiamo, i più famosi sono la tetralogia dell'amica geniale, quindi l'amica geniale, storia del nuovo cognome, storia di chi fugge e di chi resta, storia della bambina perduta. Sono quattro libri che raccontano la storia di un'amicizia di due ragazzine nate e cresciute a Napoli e che poi insomma si disperdono nella vita, crescono, eccetera, segue tutta la loro vicenda. Perché si sta parlando di Elena Ferrante? Per due motivi. Perché la rivista americana Time l'ha inserita fra le 100 persone più influenti del 2016, mica pizza e fichi, e poi perché è addirittura nella shortlist, diciamo nella lista finale dei 6 finalisti del Man Book International Prize 2016, che anche questo insomma è un premio internazionale letterario molto importante. C'è sempre da dire che Elena Ferrante è veramente molto molto amata negli Stati Uniti, forse quasi più che in Italia. Beh, straordinario. Alessandra, il tempo è agli sgoccioli, quindi appuntamento con il Cacciatore di Libri o come ogni sabato alle 6.30 del mattino alle 22, podcast sempre a disposizione. A presto! E non potevamo anche al Sabato del Villaggio dedicare un brevissimo ricordo a Prince. Brevissimo non perché non si meriti un ricordo immenso, ma perché ci sarà qualcosa di molto importante questa sera a Radio 24. A omaggiare, a ricordare Prince sarà una persona che ha avuto la fortuna, l'opportunità di conoscerlo, di lavorare insieme a lui, e quindi ci regalerà i suoi ricordi. Noi l'abbiamo già in diretta per, come si dice tecnicamente, un lancio della trasmissione, ma soprattutto perché voglio avvisarvi che ci sarà questo appuntamento da non perdere. Buonasera Gigi Telesforo. Ciao Marta, che piacere essere presente nel tuo programma. Che bello. Dai, qualche volta vieni a trovarmi anche al Sabato del Villaggio. Lo farò, soltanto che adesso ci stiamo preparando per questa puntata speciale dedicata a Prince, speciale perché Intanto il repertorio che ho scelto è proprio diverso da quello che stanno proponendo tutti ormai da due giorni. Non voglio raccontare la pop star, non voglio raccontare il personaggio, non voglio parlare dei suoi abiti né delle sue bellissime ragazze. Voglio parlare del musicista, e quindi anche il repertorio selezionato metterà in evidenza soprattutto le sue caratteristiche di ottimo arrangiatore, producer e polistrumentista. Però senza svelare troppo, perché mi piacerebbe che gli ascoltatori non si perdessero Soundcheck di questa sera, ci saranno anche i tuoi ricordi personali? Beh sì, racconto Prince, non racconto la sua storia perché è stato già fatto, e allora noi vogliamo sempre distinguerci, per cui vado sul serio, sul personale, su considerazioni più che altro dei ricordi. Ecco, insomma, io sono stato più di un mese al Paisley Park a Minneapolis diversi anni fa, era la metà degli anni 90, perché avevo un contratto discografico con la Go Jazz americana, etichetta che produceva parte delle sue produzioni proprio al Paisley Park di Prince, e quindi mi sono ritrovato lì, e questa sera racconterò quella bellissima esperienza augurandomi di celebrare Prince nel miglior modo possibile da eccellente musicista e visionario della musica qual è stato. Grazie Gege, appuntamento dopo il giornale radio delle 19 con Soundcheck, a presto. Ciao Marta, grazie, ciao. Il sabato del villaggio. Ricchissimo, ricchissimo questo sabato del villaggio, ancora un paio di finestre da aprire sul nostro weekend, sui nostri liberi consigli per il fine settimana, poi avremo però ancora l'ora di RadioTube, saremo insieme fino alle 18. Intanto ringrazio Roberto da Voghera che ci ha mandato la segnalazione di una sua app che ora giro a Enrico Pagliarini, così la proverà lui e ci dirà che cosa ne pensa. Insomma, la faccio subito conoscere al nostro Enrico che è ancora di là dal vetro, adesso andiamo a metterci d'accordo per quello che faremo questa sera, del quale parleremo tra poco a Radio 24, ma adesso è il momento dei consumi. Together, passiamo la notte insieme, che gran pezzo pazzesco dei Rolling Stones. Passiamo la notte insieme a fare cosa, Maria Luisa Pezzali? E non ci sono doppi sensi, cosa facciamo di notte adesso? Ciao Marta, un saluto a tutti. Possiamo fare tutto, possiamo certo. Andare al ristorante, andare a fare la spesa al supermercato, andare in palestra, insomma adesso ti racconto tutto su questo trend che si sta veramente rafforzando nel mondo dei consumi. Parliamo delle aperture notturne, appunto, anche in Italia, sulla scia di mercati ben più maturi che da tempo lo fanno, uno su tutti, il mercato americano. Certo. Lo sappiamo tutti, ormai vita, lavoro e consumi hanno tempi completamente diversi rispetto a un tempo, molto più fluidi. Gli smartphone ci aiutano a lavorare oppure ci costringono, sì, a seconda dei punti, di, vista, anche la sera, la domenica, insomma, lontano dall'ufficio. La vacanza anche a tempi diversi grazie alla concorrenza sul mercato dei voli e anche alle nuove destinazioni che ci fanno partire non solo di sabato, Marta, non solo il 15 di agosto e anche di notte, a volte anche quelle, e molto spesso di notte. E poi l'e-commerce, grazie all'e-commerce ormai possiamo comprare di tutto e a qualsiasi ora, insomma, sì. Anche il fisico, l'offline, si è adeguato a questa tendenza, e quindi il commercio tradizionale, il retail, ha sposato questo modello fluido e ci abituiamo sempre di più a vivere in città che non dormono mai. Ci sono appunto supermercati aperti 24 ore su 24, ad esempio Carrefour lo fa con un centinaio di punti vendita sparsi da nord a sud, poi ci sono ristoranti, spazi di coworking addirittura. Ah, certo, per chi vuole lavorare di notte. Talent Garden a Milano, nella sua ultima sede, ha inaugurato appunto la formula anche notturna, palestre, dicevamo addirittura asili nido, Marta. Beh, ci sono persone che fanno il turno di notte e questi bimbi qualcuno li deve guardare, esatto, accidenti. Soprattutto in questo periodo, insomma, di estrema mobilità, in cui i lavoratori si spostano in città, in cui non hanno la rete familiare di sostegno, e quindi ci sono i servizi che vanno incontro anche a questa esigenza. E poi a Roma l'Università La Sapienza apre alcune sale agli studenti per le tirate non stop. Le abbiamo fatte tutte le maratone notturne prese, esatto, in vista degli esami, e trovo che sia un servizio splendido, insomma, sì. Anziché in casa sul divano senza far rumore, basta che ci sia del caffè anche all'università. Vabbè, sicuramente si va nell'aula studio. Tra le realtà che hanno scelto di scommettere sulla formula 24/7, perché ovviamente è una formula commerciale che deve dare quindi dei ritorni, McDonald's lo fa con numeri veramente importanti, e me li sono fatti raccontare dal direttore marketing Emanuela Rovere. Oggi, partendo dal 2008, in cui appunto nascevano i primi concetti appunto di 24/7, abbiamo una rete di 119 ristoranti su 531, quindi circa il 22% del totale della nostra rete, che offre questo servizio appunto di apertura 24 ore, 7 giorni su 7, proprio per soddisfare la clientela. Sono abbastanza distribuiti in Italia, certo. La Lombardia fa un po' da padrone con 23 ristoranti, solo in Lombardia, prevalentemente nell'area di Milano, quindi comunque diciamo le aree più evolute metropolitane, dove questo tipo di abitudini di consumo sono radicate diciamo da più tempo, sono state un po' le prime a partire, sono quelle che maggiormente diciamo si espandono, proprio in linea anche un po' con quelle che sono le abitudini e le esigenze della clientela. Raccontaci un po' cosa dicono i vostri dati, da chi sono frequentati, sono preferite fasce notturne o quelle della prima mattina, per quale tipologia di consumo? Ma allora, intanto comunque le vendite un po' notturne rappresentano il 7% un po' del fatturato, quindi comunque sono una buona percentuale. I target si dividono prevalentemente in due categorie, diciamo che nella fascia dopo cena e le prime ore del mattino molto il target giovane, soprattutto nel weekend, perché ovviamente è un modo per fare il pre-serata o il dopo serata, no? Rispetto anche per esempio a una serata in discoteca piuttosto che tra amici, mentre poi si ripopola diciamo nelle prime ore del mattino con una fascia molto diversa dei lavoratori notturni o dei lavoratori molto mattinieri, e ovviamente questo prevalentemente nei giorni feriali, quindi ha un po' queste due caratterizzazioni di target diciamo più abituali. Poi certo è una consuetudine che si sta allargando sempre di più, quindi prima magari erano davvero molto più settoriali, adesso questa fluidità ci sta facendo vedere in quelle fasce anche magari target più adulti che in origine non vedevamo nei nostri profili demo. Maria Luisa, già so che ci sarà qualche ascoltatore che penserà, oddio, di notte lasciateci in pace, lasciateci dormire. Sì, ma dobbiamo proprio comprare anche di notte, ecco. Ovviamente il dibattito è molto acceso, però io rispondo sempre quando mi capita insomma di parlarne che le città con i servizi anche di notte sono città più sicure, e sì, questo vero, è un elemento vero. Che va assolutamente considerato. Poi è vero, il mercato del lavoro si deve adeguare in modo corretto a una formula come questa, però il focus della mia analisi non è questo, è il fatto che appunto i servizi vanno incontro alle nuove abitudini di consumo e di vita, e quindi l'opposizione non serve a niente. Verissimo, verissimo. Adesso però è il momento di andare a scoprire le chicche che trova la nostra Cristina Lazzati, che dovremmo avere già al telefono. Buonasera Cristina, o buon pomeriggio, insomma a quest'ora non so mai come salutarti. Ciao Cristina. Allora, questa settimana cosa hai scovato per noi? Allora, stando nel tema di chi la notte non dorme, ma non perché esce a mangiare da McDonald's, parliamo delle mamme italiane che quando pensano alle scelte alimentari che fanno in famiglia, 4 su 10 sono vittime di insicurezza, ansia e pure senso di colpa. Ce lo racconta una ricerca della Doxa, che è andata un po' a chiedere a queste mamme italiane, si è parlato tanto di educazione alimentare eccetera eccetera, pensate che l'Italia spende 23 miliardi di euro all'anno per curare le malattie da cibo, quindi è fondamentale non solo per la salute dei nostri figli, ma anche sul futuro degli investimenti da un punto di vista della pubblica amministrazione, su quello che riguarda le malattie e quant'altro, che bisogna insegnare ai nostri figli a mangiare meglio. E allora pensiamo che le mamme 9 su 10 preparano a mangiare, perché la mamma italiana rimane sempre la mamma italiana. Peccato che solo 2 su 10 pensano che l'alimentazione che danno ai loro figli sia equilibrata, soprattutto perché, e lì non ci vuole molto, mangiano troppe poche verdure. Sì. E lì è veramente obiettivamente un problema. Anche il Ministero della Salute ha lanciato una serie di, come dire, di temi da affrontare, tanto per incominciare con la promozione dell'allattamento al seno. E qui segnalo una bellissima iniziativa che è stata avviata proprio da pochi giorni sulla banca del latte materno, che è appena stata inaugurata in Mangiagalli grazie all'apporto della famiglia Caprotti e di tutti i consumatori dell'Esselunga che si sono impegnati per sovvenzionare questa cosa, perché obiettivamente l'alimentazione ai bambini parte proprio da lì. E poi c'è la ristorazione scolastica e poi la ristorazione ospedaliera, tutte cose che effettivamente devono andare a essere riviste. Tra l'altro i bambini, ho scoperto, e qui un'altra ricerca che si chiama Food 2020, che ha fatto una ricerca in tutto il mondo ma anche sull'Italia, che i bambini italiani sono molto attenti, il 39% di loro legge le etichette del cibo. Beh, vedono i genitori evidentemente che cominciano a farlo sempre più spesso e imparano anche loro, bene. E in più il 38%, che sono tantissimi, diciamo, sono bambini dagli 8 anni in su, quindi insomma anche, come dire, cominciano a metterci la testa, sono sempre bambini, sceglie di evitare cibi poco salutari. Non nessuno di questi 38% non ci sono i miei figli. Beh, devo dire che anche la nostra generazione non era proprio, non avevamo questa attenzione. Devo dire che mi fa piacere, se non cominciano a essere ossessionati da piccoli è buono. Sì, basta che non siano in ansia, ecco perché poveretti, lasciamoli in pace. Ecco, perché se pensate che il 37%, secondo questa ricerca, parla di filiere e sicurezza alimentare, beh, possiamo dire abbiamo fatto una capatanta a questi bambini, sì. Perché obiettivamente insomma sono dei numeri importanti. Quindi di tutti gli europei intervistati, anzi in tutto il mondo, perché intervistati da questa ricerca, gli italiani sono i più attenti al cibo e hanno i bambini ancora più attento, tenuto conto che incidono sulla spesa pesantemente, perché pensate che il 54% dei genitori italiani dà retta alla lista, mette nella lista della spesa quello che chiedono i figli. Quindi insomma, cioè, sono dei bei decisori di spesa alla fine. Tutto questo bisogna tenerlo presente, lo devono tenere presente anche i retailer, perché si rivolgono comunque a una generazione che diventerà sempre più attenta alla salute e a quant'altro. Intanto qualcosa si muove e quando dicevamo non esageriamo, per carità, niente contro i vegani, per carità. Poi Radio 24 però, è sempre argomento molto sensibile. Esatto, ma a Milano ha aperto il primo asilo nido vegano. Si chiama Natura e di fatto ha una filosofia completamente vegana, sia per quello che riguarda il cibo e l'alimentazione, sia per tutto quello che riguarda l'arredo, per cui tanto di cappello, perché questi bambini vengono abituati al rispetto alla natura, tutto oltre agli ambienti bio, sono educati proprio con la filosofia di attenzione ai materiali riciclabili, un modello di vita di attenzione alla natura e così. E poi c'è la parte vegana che, come sapete, è molto dibattuta anche dai pediatri, perché non tutti i pediatri sono d'accordo su questa cosa, ma ce ne sono anche alcuni che si sono allineati, per cui in questo asilo prende e abbraccia la questione vegana al 100%. Io lascio libertà di coscienza su questo argomento, non voglio intervenire per non creare polemiche, che è sabato pomeriggio e quindi vogliamo essere tutti un po' più sorridenti. Sì, e poi io vorrei invece che una mamma vegana mi spiegasse come fa a far mangiare le verdure ai suoi figli. che magari può essere un suggerimento di vita anche per quelli non vegani. Grazie Cristina per essere stata con noi, al prossimo sabato. Ciao. Grazie Cristina. Maria Luisa, invece con te l'appuntamento a domani sera. Domani sera Essere Vera alle 22, Cruciani non si arrabbierà, ma tra le altre cose parlerò proprio della fame verde nei consumi alimentari, perché il trend è veramente consistente, importante, riguarda il retail, la distribuzione e poi anche i consumi domestici. A domani sera. Il sabato del villaggio. Stavo per cadere dalla sedia? No, eccomi, ultimo capitolo del nostro Sabato del Villaggio, prima dell'ora finale insieme, che è quella di RadioTube. Stiamo parlando tanto di tormentoni e tanti tormentoni viaggiano in televisione. Chissà se riconoscete alcuni di questi tormentoni del passato. Sì? C'è Gigi? Non c'è. E la cremeria? C'è, sale. Buonasera, c'è Gigi? Non c'è. E la cremeria? C'è. Salite. Ambrogio. Signora? Ho un languorino. Non vorrei che mi incupisse l'espressione. Provvedo subito a farle preparare qualcosa. No, intendevo qualcosa di eccezionalmente buono. Un'opera d'arte del gusto, insomma. Ciao, bocconcino. Ciao. Vai in merenda con me? Ma dove vivi? La merenda non si fa più e così. Ecco come si fa, con due gusti. Me la fai provare? E tu che mi dai? Un bacio. E no, due gusti, due baci. Il nostro Filippo Aureggi in regia le ha riconosciute tutte, qualcuna apprezzata di più, qualcuna apprezzata di meno, i tormentoni in pubblicità. Li amiamo, li adoriamo, magari la pubblicità a volte per qualcuno è un fastidio, invece per molti è un piacere. Io sono del partito del piacere, perché a me la pubblicità piace tantissimo, è sempre piaciuta e mi piace talmente tanto che questa sera andrò, adesso finalmente vi svelo dove andrò stasera, a vedere La notte dei Publivori, ancora questa sera al Blue Note di Milano, la scorpacciata della pubblicità. E abbiamo al telefono con noi chi la organizza tutti gli anni, ormai da molto molto molto tempo, Riccardo Cioni. Buonasera Riccardo. Ciao, ti aspettiamo. Ah, noi, io arrivo alle 9, sono già pronta, 2 ore di pubblicità. Esatto, quest'anno abbiamo fatto, come tutti gli anni, il nostro mix del, diciamo, un po' il meglio del 2015-16 per circa un 70%, poi i grandi classici della notte dei Publivori e poi il menù Publivoro, per tornare all'abitudine di una volta di cenare e vedere la pubblicità. Ah certo, perché una volta c'era Carosello, qualcuno se lo ricorda, qualcuno l'ha sfiorato come me, l'ha solo sfiorato, qualcuno è nato dopo, in tanti sono nati dopo, Carosello all'ora di cena. Ma questi tormentoni sono importanti ormai, anche La notte dei Publivori ha i suoi tormentoni. Beh, assolutamente, per noi il nostro tormentone è se fa ridere fa vendere, e quindi cerchiamo di presentare sempre spot dove c'è un po' di autoironia, dove in Italia non siamo proprio degli specialisti. Ecco, perché questi spot sono spot di tutto il mondo e a volte viene un po' così di magone pensare che altrove c'è una creatività che da noi si è un po' persa, forse? Sì, siamo un po' troppo ossequiosi del prodotto, e poi diciamo che in questo momento dove la crisi a contenere un po' anche i budget, bisogna basarsi solamente su idee creative, e stanotte ne vedremo oltre 300. La notte dei Publivori ha una origine lontana. Tu da quanti anni te ne occupi in Italia? Ma diciamo da quando abbiamo fatto il gala della pubblicità su Canale 5, quindi dal 96, ecco, dove ho conosciuto, ecco, Jean-Marie Burzico, che stasera il suo delfino sarà con noi. E quindi fra poco arriva dall'aeroporto e festeggeremo insieme questo format, che è un po' diverso da quello tradizionale perché è un po' più condensato, e ci dispiaceva vedere che alle 3 di notte magari metà platea si era addormentata o era andata da un'altra parte, quindi tanti belli spot venivano persi. Invece, diluendosi in 6 eventi, di cui la maggior parte sono tutti sold out, e tutti hanno la possibilità di vedere il meglio. Io ho un po' di nostalgia però per quelle notti intere, ce l'ho, quelle notti in cui si rimaneva veramente fino a mattina, in pochi, duri e puri. Io le ho portate tutte avanti fino alla fine, ero degli eroi. Ti meriti un premio, stasera ti faremo vedere, la faccio montare al volo, Super Timor. Ah, che spray. Sai che è la mia preferita, quella dello spray. Allora, ve la twitto adesso, ve la metto su Twitter, è la mia preferita in assoluto, la mia pubblicità preferita della notte dei Publivori, e Riccardo lo sa. Riccardo, per ora solo a Milano, ci sarà secondo te la possibilità di sperare che si faccia ancora da qualche parte, che tu la possa riproporre quest'anno? Guarda, la tua domanda è molto pertinente, come sempre. E poi ci sono alcune così coincidenze particolari delle nostre attività, parlo mie e delle agenzie con cui collaboriamo e che, insomma, curiamo un po' questo prodotto. e quindi stiamo proprio ragionando in quest'ottica di vedere dilatare questo format che sta funzionando molto bene. Sì, perché appunto già sold out in quasi tutti gli appuntamenti al Blue Note. Abbiamo ancora qualche tormentone, Filippo? So che ce ne abbiamo ancora qualcuno, chissà se te li ricordi, eccoli qua. Io non ho mai provato un rano. Provalo, un rassaiva è tutto nuovo. Io non ho mai provato un rano. Ma come non hai mai provato un rano? Un ra! No, non ho mai provato un rano. Beh, peccato. Certo, ma se non mordo come faccio io? Ciao amici, sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Qua nel sole ti spacca il quattro? Non si sbaglia. Tu dici che lo riconosce, ma vediamo. Bravo Michele! La tua fama di intenditore non si smentisce mai. Bravo. Colore chiaro, gusto pulito, il grande whisky di puro malto d'orzo. Riccardo, queste pubblicità ci riportano a un'epoca lontana, cercando su YouTube si ritrovano quasi tutte. Sì. Subito ci riportano a un passato, è come se le avessimo sentite 5 minuti prima, non un potere magico? Beh, la forza della comunicazione di qualità, forse anche della ripetizione, perché sono quelle pubblicità appartengono a un periodo dove dominavano le televisioni generaliste, poi diciamo l'ascolto si è frazionato in canali tematici dove segui non solo il programma o quel tipo di canale, ma anche la pubblicità che vi è inserita dentro e che quindi ha dei paletti a livello di target più stretti. Però insomma la forza della pubblicità è di essere sintetica, dire una cosa sola, sorprenderti. La potenza è nulla senza il controllo. Anche questa è una citazione. Che puoi utilizzare in tanti momenti, ecco, voglio dire. Certo, no, ma non indaghiamo però in quali momenti, no, però sì. No, però sì. Non c'era il doppio senso. Chilometri sì, meccanici no, ecco, diciamo uno meno compromettente. Ma non me lo ricordavo, chilometri sì, meccanici no, è vero. Bellissima BX, facile da amare. Ma quindi, certo, ma vedi, no. Mi apri i cassettini dei ricordi, forse perché certo. Erano anche molto italiane, fatte da agenzie italiane, adesso invece ne abbiamo, adesso non voglio essere autarchica, però colpivano, erano magari più ingenue, però colpivano la nostra immaginazione. Sì, assolutamente sì, abbiamo avuto dei direttori creativi che si stanno muovendo ancora a livello internazionale di una capacità straordinaria, quindi sicuramente dal punto di vista creativo non abbiamo mai avuto... diciamo sudditanza, forse diciamo le aziende sono state meno coraggiose rispetto a quelle di altri paesi. Oggi c'è un melting pot, un po' di tutto, e quindi oggi comanda solo il business, telefonia, grandi marchi e internazionali, quindi è un po' cambiato l'approccio su tutto, ma sta facendo rinascere la pubblicità locale. Infatti stasera avremo anche molte esclusive dalla Croazia, dalla Slovenia, dei posti dove ancora è utile parlare un linguaggio locale. Che meraviglia, io non vedo l'ora. Io arrivo alle 21 al Blue Note a Milano, poi ci sarà anche lo spettacolo delle 23:30 e terrò aggiornati gli amici del Sabato del Villaggio. Fammi sapere se si riesce a organizzare anche in altre città, perché anche dai messaggi che arrivano, secondo me un po' di attesa, un po' di curiosità ce n'è. C'è anche chi ci scrive dei tormentoni che si ricorda del passato, insomma molto molto affetto. Notte dei Publivori. Ah, che meraviglia. Bene. Grazie. Avete tutte le indicazioni. La Notte dei Publivori.it. Sì, ecco, sì, no, l'ultima cosa dico solo questa, che è promozionale ma non è per la promozione, è perché in realtà abbiamo abbinato, come tutti, del food in quest'anno particolare di Expo, e quindi i nostri partner è dell'ottimo food italiano che ha creato questo menù Publivoro. Amanti e affamati della pubblicità possono finalmente, come nel jazz si mangia birra e salsiccia ascoltando i grandi musicisti, noi possiamo vedere la pubblicità, il nostro rito sociale serale, mangiando patatine e anche noi salsicce, ma di qualità italiana. Grazie mille, grazie ci Riccardo Cioni. Grazie a più voi. Tardi alla Notte dei Publivori, sempre con grazie grandissimo a tutti, affetto. Grazie ascoltatori. Grazie. Grazie Riccardo. A dopo, noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17, ancora con il Sabato del Villaggio, che diventerà Radio Tube. A tra poco.